Ci sono giorni in cui mi sveglio spento e tutto sommato provo a starci dentro. Alle porte di Roma, la capitale italiana, nei comuni di Colleferro, Segni e Gaviano, sono stati sequestrati oltre 150 animali, tra cavalli, pony, muli, asini e bovini, tutti in gravissimo stato di salute, denutriti e in condizioni igienico-sanitarie devastanti. Gli animali si aggiravano in cerca di erba da brucare in pieno inverno, senza alcuna riserva di fieno, senza alcun riparo, tra le carcasse o i corpi agonizzanti dei loro consimili più deboli e ormai allo stremo. Non è la sceneggiatura di un film dell'orrore, ma la più grande operazione di sequestro di equini mai realizzata nel nostro paese. Abbiamo intervistato Sonny Richichi dell'associazione Italian Horse Protection, una delle associazioni che si sono occupate di questa gigantesca operazione, e gli abbiamo chiesto com'è stato entrare tra i primi in questo scenario. Quello che ha fatto impressione entrando in questi terreni è stato scoprire i resti di tantissimi animali che invece negli anni erano morti lì, dimenticati da tutti, senza nessun tipo di assistenza, morti di fame, morti di freddo, i cui scheletri sono visibilissimi e ormai sono stati diffusi da qualsiasi organo di stampa a cielo aperto in case diroccate, o addirittura ne abbiamo filmati veramente a 20-30 metri dalle strade transitate dei cittadini, nonché di fronte alle abitazioni. Ma chi sono i responsabili di tutto questo? Si tratta di un adesso 84enne che però per decenni ha fatto il bello e il cattivo tempo nella zona, il classico personaggio locale che è probabilmente legato anche a ambienti poco raccomandabili e poco edificanti, ha spadroneggiato nel tempo creandosi una fortuna sia in termini di liquidità sia in termini di acquisizione di terreni praticando attività illegali. Per motivi di età non è stato posto in carcere e non lo sarà mai. Gli è stato dato un fermo domiciliare che lui assolutamente non rispetta, ma parliamo appunto di un personaggio che si permetteva il lusso, ti cito qualche esempio, di recintare a filo spinato tutti i terreni, compresi i lati che confinavano con le strade statali e provinciali, quindi mettendo a repentaglio anche la sicurezza di passanti, di automobilisti, di motociclisti e quant'altro. Parliamo di un personaggio che gira con mezzi non omologati, che gira probabilmente anche senza patente, che ha spostato sempre gli animali portandoli a mano attaccati alle macchine senza che nessuno mai lo fermasse. Quindi parliamo di un ambiente un po' particolare dove la magistratura sta facendo il suo corso con le limitate possibilità che ha nei confronti appunto di una persona che ha 84 anni e dove appunto noi purtroppo ci dobbiamo anche fare i conti con spesso la non volontà di fare il proprio dovere ancora oggi delle autorità locali. Ma cosa gli serviva tenere lì tutti quei cavalli? L'utilizzo dei cavalli era franatissima, è così, un metodo di acquisizione dei terreni. Nel momento in cui lui puntava ad acquisire un terreno o con metodi pseudolegali o con metodi illegali, di fatto la sua tecnica era quella, il giorno dopo aver fatto una prima mossa nei confronti del proprietario, magari dando anche una caparra o facendo semplicemente un accordo verbale, il giorno dopo la mossa era quella di metterci dentro degli animali, proprio facendo un'occupazione fisica del terreno. Questo, giocando un po' con la capacità intimidatoria che lui aveva nei confronti di tutti, giocando anche sull'ignoranza molto spesso della gente, faceva poi alla fine i suoi interessi, cioè quello di garantirgli di fatto e poi conseguentemente in un momento successivo di diritto le proprietà di questi terreni. In effetti si stima che sia proprietario di un'estensione di terreni enorme, nonché di negozi, appartamenti nei comuni di Colleferro, di Segni. Gli animali una volta messi lì venivano abbandonati a se stessi, quindi di fatto se sopravvivevano, sopravvivevano i più forti grazie al fatto che comunque essendo terreni ampi si creava un minimo di pascolo. Quindi i più forti un po' riuscivano a mangiare. Ripeto, abbiamo trovato decine e decine di carcasse invece di animali che chiaramente morivano di stenti. Per queste operazioni di salvataggio e recupero immagino che servano dei fondi, delle risorse. Chi le mette a disposizione? I comuni non hanno stanziato un euro per supportare l'operazione. Il Ministero stesso della Salute non ha alcun fondo da stanziare per questa operazione. Di fatto chi sta pagando il cibo, i medicinali, le prestazioni veterinarie e altri tipi di manodopera necessari per la custodia e la detenzione di questi animali sono le associazioni, appunto la nostra, Italia Nurse Protection, che ha lanciato questa operazione, e poi il Rifugio degli Asinelli e l'ENPA che ci stanno affiancando. La prima fase si sta concludendo con l'adozione di alcuni animali. 19 cavalli sono stati trasferiti in un centro della forestale a Castel di Sangro. Probabilmente entro questo fine settimana tutti gli asini e i muli saranno trasferiti presso il Rifugio degli Asinelli in Piemonte e saranno fatte delle altre adozioni a privati, le cui richieste le stiamo vagliando in questi giorni. C'è un bisogno disperato di donazioni, anche piccole, per sostenere il progetto della liberazione dell'assistenza dei cavalli di Colleferro. Per tutte le informazioni digitate www.horseprotection.it nella sezione Sostienici, dove troverete i conti correnti, bancari e postali e il diario aggiornato sul sequestro di Colleferro. Tutte le informazioni anche nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. La notizia è di martedì scorso ed è una bella notizia. Davide Battistini ce l'ha fatta. Dopo oltre 40 giorni di sciopero della fame per ottenere dalla Regione Emilia-Romagna il divieto di tenere i cani alla catena, la Commissione regionale Salute e Politiche Sociali ha definito un progetto di legge accogliendo le richieste di Davide, che ha così sospeso lo sciopero. È un successo anche per i molti digiunanti che si sono uniti alla lotta di Davide con uno sciopero della fame a staffetta lanciato e organizzato dalla nostra redazione. Nell'edizione di domenica di Restiamo Animali, un'intervista con Davide Battistini.